questa è la situazione, sai. Troppe storie truccate, più di un bidone a prima i rai. Invece chi come me se ne fa, mi spacco di giorno. Viva la notte, aumento la dose, scacca e volo. Comincia so che tanto la strada ti dà cosa vuole. Volevi la figa e butto le troie. Volevi la droga, anche le banconote. Invece c'hai le tasche vuote. In giro con i più pazzi, con i più fatti. Abbiamo tutti quanti gli occhi rossi, la Manchester United. Beh, se tu ti senti the best, io ti detesto. Tu non sei il mio best friend, appresso. Non voglio fare il gangsta, non mi pongo manco l'idea. Se tu vuoi farlo, qualcuno deve dirti che non siamo in San Andrea. Io non reggo questi player, metti il mio disco, scaccia il player. Metti a confronto queste rime, controlla la tua merda in playback. Mic check, tu fa sul microfono, wow. Vado a farmi fare le tracine, spacco il culo.